uno, nessuno, uno, nessuno, nessuno, 100 Milan. Uno, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera. Eccoci qui, cari ascoltatori, siamo per una nuova puntata di Uno Nessuno 100 Milan. Fino alle 11 con voi, io in diretta dalla ridotta di Viale Monza, Leonardo Manera in arrivo, Granito Manera tra poco, dopo le 9.30 dalla ridotta di Piazza Friuli, Piazza Udine o da quelle parti. E poi Elisabetta Fusconi, Miriam Lucchetti, Lorenzo Nespoli, ci siamo, c'è l'Alpino in regia, ci sono tutti, 800 24 00 24, chissà se ci siete anche voi. Diteci cosa ne pensate dei tanti temi che affronteremo oggi. Torneremo sulla questione estate, gli ombrelloni a 5 metri di distanza con i ristoratori, i rappresentanti dei balneari, gli albergatori che dicono così è meglio non riaprire. Avremo ospite, torna con noi Oscar Farinetti, che ci deve dire come ha nominato la nuova patrimoniale. Io non me lo dimentico, lui aveva detto che voleva una patrimoniale, ma bisognava trovare un nome diverso per renderla un po' più appetibile. Ma partiamo da una notizia che riguarda la scuola, che mi ha molto incuriosito, è da qui che voglio partire oggi. Vai, Alpino. Enthusiasm about the future. Detto che, vabbè, poi se volete ci sono tutti gli altri temi sullo sfondo ancora di Silvia Romano. Io ieri l'ho detto, guardate, ve lo chiedo gentilmente a colleghi e fotografi che stazionate sotto casa Silvia Romano, mi potete gentilmente levare dalle balle? Che basta, cioè non ci sono notizie lì sul marciapiede sotto casa al quartiere Casoretto, non c'è nessuna notizia, nessuno vincerà il Pulitzer per una notizia raccolta lì sotto il portone di una casa. Basta, e quello che è stato detto, quello che è stato scritto, basta, dai. Dopodiché, la notizia della scuola che mi ha colpito. Allora, c'è oggi, l'abbiamo trovata sul Gazzettino, oggi la riprende Libero. Cosa succede, cari ascoltatori, se in un tema, direi temino, di quinta elementare, uno studente scrive dell'insegnante definendola sclerata, fuori di testa, e poi l'insegnante dice che incrociandola sulle scale le ha anche detto era meglio che rotoli, visto che evidentemente questo insegnante non è filiforme, così almeno testimonia lei. Ecco, cosa succede se un bambino di quinta elementare in un tema scrive queste cose dell'insegnante? Sclerata, fuori di testa, cioè, io dico, non so, verrà punita in condotto, questo studente prenderà un brutto voto, verrà richiamati i genitori? No! Succede anche che i genitori vengono querelati per diffamazione, in quanto hanno la responsabilità in quanto genitori, e vengono condannati a pagare 1.000 euro di multa perché hanno la responsabilità educativa del figlio. La richiesta era di 5.000 euro per la verità. L'avvocato Innocenzo D'Angelo, buongiorno avvocato, ha difeso questa insegnante insultata. Perché diffamazione? Addirittura non basta un brutto voto in condotta, avvocato? Ma in questo caso il problema non è tanto quello che ha scritto il ragazzo, che di per sé è diffamatorio, poi comunque non ha avuto conseguenze. Tra l'altro era un bambino che aveva un ottimo rendimento scolastico, non è stato penalizzato lui, giustamente, non sarebbe stato neanche positivo e corretto. Il problema è stato che i genitori, dopo questo che è avvenuto, quando la scuola, tramite gli insegnanti, tramite i dirigenti, hanno chiesto di venire, di spiegare, di parlarsi per trovare una soluzione a questo atteggiamento, si sono rifiutati di andare, dicendo di non aver tempo per colloquiare, e quando la scuola ha detto beh, diteci voi quando siete liberi, disponibili per l'incontro, non hanno mai risposto. Quindi è questa in realtà la gravità, se ben vedete. Quindi la non si sono presentati a una richiesta della scuola di chiarimenti, però mi risulta che poi alla fine un messaggio di scuse. messaggio di scuse poi è arrivato. Un bigliettino prestampato, con tante scuse. Ma vabbè, non era quello il senso. Il senso è un portato dal bambino, cioè lì dovranno i genitori a presentarsi e a capire dove era il problema e intervenire come chiedeva la scuola, come chiede la scuola normalmente in questi casi. Infatti il giudice sottolinea questo. Perché per questo c'è la responsabilità dei genitori, che a fronte di questo problema non si sono presi la briga di non si sono chiarire, presentati ed è per questo sono stati penalizzati, ecco. Quindi io devo dire che saluto anche la coordinatrice provinciale del Gilda, sindacato Gilda Treviso, Michela Gallina, buongiorno, perché buongiorno, l'insegnante si è rivolta a voi, no? Sì, si è rivolta a voi. Si è rivolta a noi perché appunto dopo aver letto questo tema essere rimasta sconcertata e aver fatto prima questi tentativi di mettersi in contatto con la famiglia e non aver ottenuto un riscontro, ha ritenuto di doversi tutelare dal punto di vista della dignità professionale, argomento sul quale stavamo tra l'altro come sindacato insistendo, perché periodo in cui di fatto si sono concentrati episodi di questo tipo, e quindi come sindacato avevamo anche avviato una campagna di sensibilizzazione nei confronti degli insegnanti, cercando di trasmettere il concetto che in quanto pubblici ufficiali hanno diritto, devono essere rispettati, cioè non solo... certo, a detta rispetto. Ma esattamente che cosa c'è scritto in questo tema? Sclerata, fuori di testa, queste sono le... beh sì, che sono insulti. Sì, non lo so, ma come mai questo bambino ha scritto, si sarà fatto innervosire da qualche comportamento, magari qualche non so, l'avrà ripreso, l'avrà... No, in realtà in questo tema il bambino esprime un disagio generalizzato nei confronti della scuola, dei compagni e anche della maestra, quindi a maggior ragione sarebbe stato importante un intervento dei genitori in maniera da pensare anche ad un intervento congiunto scuola-famiglia per cercare di tradurre diversamente questo suo disagio, poter dare delle parole, una voce diversa al disagio, proprio in questo è mancato l'intervento dei genitori famiglia. Ma infatti io vorrei capire dall'avvocato D'Angelo se ci fosse stato l'intervento della famiglia, non ci sarebbe stato, cioè il colloquio, ecco la risposta del colloquio, non ci sarebbe stata la causa per diffamazione? No, perché la diffamazione in questo caso il reato penale chiaramente non c'era, perché era un bambino, quindi c'è responsabilità penale a quell'età. E nel momento in cui i genitori si fossero assunti la loro responsabilità, avrebbero fatto ciò che prevede il 2048 del codice civile, cioè che il genitore o il tutore è responsabile di quello che fa i minori. Il minore, nel momento in cui loro si fossero presentati, avessero affrontato il problema e lo avessero gestito, automaticamente avrebbero fatto il loro dovere e quindi non avrebbero avuto nessun tipo di responsabilità neanche dal punto di vista civile. Beh sì, devo dire che voglio dire forse una rieducazione a questi genitori nel momento in cui il bambino fa così e sbaglia e ci può stare almeno di intervenire, di dare un segno di vicinanza alla scuola, forse non lo so se basteranno questi 1000 euro. Lei ne aveva chiesti 5.000, non era chiesti 5.000, è che per non fare la causa davanti al giudice di pace, che è un giudice più pragmatico, più veloce, abbiamo detto che il risarcimento andava contenuto nei limiti di competenza del giudice, che è 5.000, quindi in realtà noi non abbiamo chiesto una cifra, abbiamo lasciato il massimale era quello, il massimale era quello. Di fatto non avevamo poi detto datemi uno o datemi 100, abbiamo lasciato che il giudice decidesse lui quello che riteneva. Ecco. Decidesse, non era una causa speculativa, noi per carità. Le somme sono queste, va bene. Io vi ringrazio, insomma volevo iniziare con questa storia perché spesso nel mondo della scuola se ne sentono di tutti i colori e se ne leggo di tutti i colori. Adesso poi che c'è la didattica a distanza, guardate che anch'io potrei, e non lo faccio ovviamente per motivi di privacy, pubblicare alcuni dei messaggi che circolano tra studenti, insegnanti, riguardo ai miei due figli, perché adesso è tutto ovviamente in chat comuni e se ne sentono veramente di tutti i colori. Ringrazio Michela Gallina, coordinatrice provinciale Gilda Treviso, e Innocenzo D'Angelo, avvocato dell'insegnante che si è ritenuta, che è stata un po' insultata insomma da questo bambino di quinta elementare, e poi convocati i genitori, questi si sono, secondo questa ricostruzione, se ne sono un po' fregati. E quindi è arrivata la denuncia per diffamazione, la querela per diffamazione. E 1.000 euro. Oh ragazzi, io se volete ci sono tante altre notizie, dopo parleremo di turismo, parleremo di turismo. Io voglio dire una cosa ancora, vogliamo sentire Sala sulla questione Silvia Romano, perché dopo magari ne parleremo. Ieri Manera diceva, ma insomma interverrà Sala a bacchettare questi assembramenti sotto casa di Silvia Romano, e Sala qualcosa ha detto, senti un po'. A proposito dell'arrivo di Silvia Romano, la regola non è stata rispettata, l'assembramento era impressionante. Ora non ci sono assembramenti di Serie A e assembramenti di Serie B. E forse mi sarebbe piaciuto vedere oggi un po' sui quotidiani anche una stigmatizzazione del comportamento di giornalisti e fotooperatori. Beh, ma noi l'abbiamo detto, sindaco, l'abbiamo detto, effettivamente sì, anche i giornalisti si sono comportati male, giornalisti, fotografi, eccetera. Sulla questione Silvia Romano, basta, cominciamo veramente a far calare un silenzio rispettoso. Non se ne può più anche di tutti costoro che si travestono, come dico io, in James Bond dei Noantri e scrivono basta, noi paghiamo, gli altri stati non pagano, ma finiamola con questa favoletta, ma pagano tutti, anche gli americani pagano per i loro ostaggi, se no non si capirebbe come mai dovrebbe prendere in ostaggio una persona così per fare le Olimpiadi dei rapimenti, no, per ottenere in cambio soldi, prestiti, finanziamenti, magari pagano con delle assicurazioni, pagano in modo più sobrio. La differenza è tra chi riesce a smentire di aver pagato bene e chi invece è un po' balbettante in questa cosa, però pagano tutti. Basta, non credete ad altre favolette. Ma io saluto Oscar Farinetti che torna con noi. Buongiorno Farinetti, eccoci. Buongiorno qua. Milan, buongiorno. Allora, come va? Intanto ci deve una definizione. Noi l'abbiamo lasciato un po' di tempo per pensare, perché lei l'altra volta aveva detto della patrimoniale, e io le avevo detto guarda che patrimoniale e gli italiani, e lei aveva detto troveremo un nome più affabile per far passare questa patrimoniale. L'ha trovato questo nome? Sì, certo che l'abbiamo trovato. Cosa ne dice se lo chiamiamo Conte, cioè l'acronimo di contributo emergenza, capito? Lo chiamiamo contributo emergenza e l'acronimo Conte. Diventa Conte. Vabbè, l'acronimo non è male. Mi faccio dire una cosa sul patrimoniale, sì. Perché mi hanno assentato. Intanto io non avevo mai parlato di prelievo forzoso, quella è una parola sì, che parla di poco, ma patrimoniale, noi stiamo già pagando per 46 miliardi di patrimoniale, cioè di tasse sul possesso, le tasse, la tassa sull'auto, la tassa sulla televisione, la tassa sulla prima casa, eccetera, ammontano 46 miliardi e non sono proporzionali al reddito, cioè ciascuno paga uguale, a prescindere dal fatto che uno abbia più quattrini o meno quattrini. Quello che intendevo mettere io era la proporzionalità della cosa. Cioè, secondo me è giusto in uno Stato democratico, liberale e soprattutto di tutta la gente, che chi possiede di più paghi un po' di più di quello che possiede di meno. Ecco, era tutto lì. Sì, cioè chi ha di più paghi un po' di più. Va bene, stia fermo perché la linea ogni tanto va e viene, non so se è nelle langhe, ovviamente. Sono in mezzo alle linee. Abbiamo grandi vantaggi sulla città, ma non sulla banda larga. No. Le chiedo questo, mi ha colpito questa notizia. INAIL, se uno prende il coronavirus potrebbe far causa all'imprenditore come infortunio sul lavoro. Questa non è male, non è male, forse è male, ma per voi. Ma c'è questa visione dell'imprenditore che soggioga i lavoratori, è una visione di una parte della politica, non di tutta fortunatamente, ed è molto sbagliata. Pensi che c'è qualcuno che ha perfino proposto di mettere, adesso che le fabbriche hanno ripreso a lavorare, di assumere 10.000 nuovi ispettori sul lavoro, cioè che vengano a controllare gli imprenditori, come se noi facessimo stare la gente ammassata nelle fabbriche, nei negozi, dovunque. La gente sta molto più a largo che non i giornalisti sotto la casa di quella povera ragazza. Sì, cioè siamo ben organizzati. Vabbè, però questo rischia di frenare molte di aperture. Non arriva la cassa integrazione e assumeremo altri 10.000. No, bisogna fare molta attenzione, bisogna essere molto severi. Sono morti 30.000 persone in Italia, non dimentichiamocelo mai. Sì. E quindi sta roba va fatta seriamente. Ma io credo che adesso, tra il 18 e il 1 giugno, quando riapriranno tutti, vedrà un'altra grande dimostrazione degli imprenditori, dei ristoratori, dei parrucchieri italiani che prenderanno gli italiani. Secondo me hanno già dato un'ottima dimostrazione prima, fremando questo virus. E ragazzi, siamo al 13° giorno almeno dell'1%, al 26° giorno di calo, cioè l'abbiamo fatta partire noi questa china positiva grazie al nostro atteggiamento. Secondo me continuerà anche da parte delle imprese. Le chiedo anche, da imprenditore, si discute molto di questo decreto che prima chiamavano decreto aprile, poi siccome si sono accorti che è maggio allora è diventato il decreto rilancio, perché insomma approvare un decreto aprile a maggio già un pochino stona. Adesso vediamo un po' cosa serve esattamente secondo lei? Soldi per chi è in difficoltà, defiscalizzazione, un po' tutto immagino, togliono un po' di burocrazia. Certo, intanto ho scoperto che sarà di 780 pagine, più o meno come Guerra e Pace, sarà come leggere sì, Tolstoi, solo che sarà un po' diverso. Speriamo che facciano un bel Bignami. Sono contenuti, secondo me. A qualcuno che faccia un bel Bignami in maniera da riuscire a capirlo. Deve servire per il rilancio delle imprese, cioè dobbiamo fare in maniera che le imprese restino vive. È chiaro che le imprese senza iniezione di liquidità moriranno. 3 mesi completamente di fermo e altri 4, 5, 6, 7 mesi davanti ad incassi molto ridotti. È lampante che un ristorante che apra o il 18 o il 1 giugno con un terzo dei tavoli a disposizione e i costi fissi rimasti tali non potrà guadagnare. Quindi dobbiamo aiutare le imprese. Perché bisogna aiutare le imprese? Perché le imprese sono l'ossatura del lavoro italiano, il posto del lavoro nasce dall'impresa. Se vogliamo mantenere questo modello sociale basato sul posto del lavoro, dobbiamo aiutare le imprese. Non è che i posti di lavoro li risolviamo con i navigator, perché i navigator navigano a vuoto se non c'è un imprenditore che investe, mette l'idea, mette i capitali e crea la fabbrica o il retail o negozio. Sì, ma su questo l'ho vista combattere molto anche con Travaglio. Ma sulla questione del reddito di cittadinanza c'è una grande lo dicono anche a me, sei contro il reddito? Io non sono contro l'idea di un sostenere chi ha bisogno, e sono stato contro l'idea di chi ha spacciato l'idea del reddito di cittadinanza come ripresa del lavoro. Come lei sa, Milano, pensiamo esattamente uguale. Il lavoro è un'altra storia, dobbiamo però aiutare. C'era già una roba, si chiamava reddito di sussistenza, se lo ricorda? Era di 2 miliardi, l'abbiamo portato a 7, va bene, servono 10, ne mettiamo 10 perché bisogna aiutare la gente di difficoltà. Ma dall'altra parte bisogna lavorare per crearli i posti di lavoro, veramente per crearli. L'altro giorno ho sentito in televisione due ragazzini, due giovani sposi che prendono il reddito di cittadinanza, entrambi, che si sono dichiarati disponibili ad andare a lavorare nei campi, rinunciando al reddito di cittadinanza, prendendo uno stipendio anche di pari entità. Guardi, ieri avevamo qui una ragazza che lavorava in un bed and breakfast, ha perso il lavoro, adesso raccoglie fragole e ci raccontava in maniera straordinaria la necessità di questa scelta e di questa riqualificazione che ha fatto. Senta, Farinetti, noi ci facciamo un po' l'idea dalla rete. Nella rete, quelli che sbraitano, scrivono cose terrificanti come questi giorni anche su sta ragazza, in realtà non è tanta gente, non so, è un numero piccolo rispetto ai grandi cittadini italiani. È che questi qui scrivono tanto, passano la giornata a scrivere le loro cretinate e noi ci facciamo l'idea che gli italiani siano così. Non sono così. La brava gente non fa rumore. L'ultima volta che ci avevamo sentiti non c'era neanche un libro, cioè Farinetti ogni tanto si mette lì e scrive dei libri, adesso ne ha scritto uno. Allora devo dire che il concetto in italiano, cioè serendipità, stona un po', cioè un po' è un termine un po' strano, invece serendipity dall'inglese, che è il titolo del suo ultimo libro, che credo esca oggi proprio per Slow Food. Oggi. Che è questo è questo termine per indicare insomma la fortuna di fare delle scoperte per puro caso e da questo rivoluzionare un po' la storia. Nel caso in cui di questo libro, lei racconta: volete sapere, cari ascoltatori, com'è nato il gorgonzola, le patatine fritte, i brownies, l'aceto balsamico? Beh, la Coca-Cola sapevo anch'io, era l'unica cosa, devo dire, Farinetti, che sapevo anch'io, che è nata come un medicinale. Ma perché si è messo in mente di raccontare la storia di tutte di queste eccellenze del cibo, anche le patatine fritte? Per cercare di spiegare che il cammino per raggiungere l'obiettivo è più importante dell'obiettivo stesso. L'obiettivo possiamo modificarlo, bisogna tenere alti i valori del cammino e la tenacia. Vorrei dimostrare con queste 50 storie che ci sono state nella storia dell'umanità delle persone che grazie alla loro tenacia hanno raggiunto degli obiettivi straordinari e a volte, e questi sono proprio i casi, immensamente migliori di quelli che si erano proposti, mai mollando. Vorrei spiegare attraverso questo libro che avere dei dubbi, avere disponibilità a cambiare idea, è più importante che avere delle grandi certezze e che bisogna partire per il cammino, bisogna darsi da fare. Pensi, Cristoforo Colombo, questa è la più grande salvezza della storia, cercava le Indie e ha trovato l'America, guardi che roba straordinaria. E qual è il prodotto, il prodotto che più l'ha colpito? Sono 50 prodotti che racconta, magari anche con colloqui con grandi cuochi, con Mi grandi piaciuta. Artisti. Sì, per ciascuna storia sono andato a cercare qualcuno che ne sa più di me, cioè per la torta caprese sono andato a scomodare Cannavacciuolo, che è di lì. Noi citiamo, visto che fa un programma da noi, il nostro Davide Oldani, no? Il risotto alla milanese Davide, di Davide Oldani. Il risotto alla milanese, non potevo che andare da lui. Che è una bella storia questa, il risotto alla milanese, perché in quegli anni, che erano gli anni di Ludovico il Moro, di Leonardo da Vinci, dei grandi artisti a Milano, uno dei motivi per cui la Milano artistica era ad altissimo livello è che c'era questo signore che faceva dei colori splendidi e l'avevano soprannominato Zafferano perché utilizzava lo zafferano per dare luminosità ai colori e aveva tirato fuori il giallo straordinario. Al matrimonio della figlia di questo vetraio che stava facendo i vetri del Duomo di Milano, gli stessi che vedete oggi voi milanesi, fu un matrimonio molto importante perché il personaggio era questo zafferano che era tra gli invitati, andò in cucina e mise sul risotto alla parmigiana, quindi il risotto fatto con grana padano, il burro, aggiunse dello zafferano così per fare un po', per far casino. E questi lo assaggiarono, lo trovarono buonissimo, quindi era una spezia che era usata soltanto chimicamente per produrre luminosità nei colori, divenne un ingrediente straordinario per un cibo. E lì è la serendipità, cioè la fortuna di fare scoperte felici per caso. Secondi, perché... che riguarda voi milanesi, il panettone, è una storia bellissima, siamo sempre ad una cena di Natale di Ludovico il Moro e uno sguattero che si chiamava Tony era stato incaricato di controllare il forno che non si bruciasse dolci. E lui si addormentò, poverino, si addormentò. Gli fecero un culo pazzesco, forse. E lui, allora disse, siccome nel pomeriggio aveva preparato un impasto strano per portarlo a casa, perché a Natale concedevano ai poveri di farsi dei cibi con gli ingredienti dei ricchi, si era fatto uno strano impasto con dell'uvetta, dei canditi, una roba un po' strana. Disse allo chef, guardate, ho questo, se volete vi do questo. Provarono, fecero dei cilindri, lo misero dentro il forno, tirano fuori e quando lo mangiarono Ludovico il Moro e i suoi invitati impazzirono, chiamarono il cuoco, gli fecero mille complimenti e lui che era onesto chiamò Tony, disse no, il merito di sto ragazzino che non sguattero ci è pensato sta roba, e da allora il panettoni lo chiamarono così, chiamarono il panettoni, quindi da un errore. E anche è bello leggere queste storie per capire che dagli errori si può imparare e si possono risolvere e si può trovare una soluzione. In realtà l'ho scritto per questo motivo. E poi, come lei avrà notato, al centro c'è la storia delle storie, cioè la serendipity delle serendipity, che siamo noi umani. Noi ci troviamo per caso ad essere su questo pianeta in una posizione che noi addirittura pare dominante. Se per esempio 66 milioni di anni fa non fosse caduta questa meteorite di 10 km di diametro in Yucatan, uccidendo tutti i dinosauri del pianeta, col cavolo che noi eravamo oggi qua. E questo lei lo spiega parlando con Telmo Pievani, che è un professore, filosofo della biologia. E poi ho scomodato, per esempio, Roberto Vecchioni per parlare del sigaro toscano. Ho scomodato Giovanni Ferrero in persona per parlare della Nutella, che è un'altra storia incredibile. Scomodato Garbi per parlare Ma tra tutti questi prodotti, qual è il prodotto che è stato scoperto davvero più per serendipità rispetto a tutti gli altri? Proprio quello clamoroso. Cioè, I clamorosi ce ne tantissimi. Lei ha citato il gorgonzola, per esempio, il gorgonzola che non era altro che lo stracchino. Stracchino, no? Si chiamava stracchino, fatto però da questi qui in questa valle, Talecco in su, che per conservarlo, visto che erano d'estate in queste valli, le mettevano dentro queste grotte e per la conservazione in queste grotte c'era questa muffa, no? Questa muffa nobile che cadeva su questo formaggio e lo rovinava, ce lo faceva diventare verde, no? Ed era allora lo consideravano una rovina, però allora non si buttava via niente, allora lo portarono a casa e cominciarono a venderlo e si scoprì che era buonissimo, no? Pensi che era il titolo del pezzo, il formaggio di Churchill, perché Churchill lo amava e quando mandò a bombardare l'Italia nella seconda guerra mondiale fece un cerchio intorno al comune di Gorgonzola dicendo ai suoi aviatori: non bombardate Gorgonzola perché da lì mi arriva il formaggio straordinario. Il formaggio, va bene. Io ringrazio Oscar Farinetti. Allora, da oggi lo trovate in libreria Serendipity, così per Slow Food Editore. Sono da Slow Food Editore. Slow Food Editore, è giusto, mi sembra giusto. 50 storie di successi nati per caso, insomma, Farinetti. Grazie, ci sentiamo alla prossima. Grazie, bello l'acronimo Conte, ce lo rubiamo. Cos'è? Contributo di emergenza. Conte, la nuova patrimoniale. Quale? Pubblicità. 1, nessuno, 100 Milan. Beh, se io avessi scritto un tema del genere all'età di 10 anni avrei preso un sacco di sganascioni da mio padre. Ma forse questi commenti li ha sentiti direttamente in casa il bambino. Quindi, giusto che i genitori paghino. Milan, una domanda. Ma il tema il bambino l'ha scritto a casa o a scuola? Se i genitori l'hanno visto prima oppure no? Milan, finalmente, avanti tutta con questi genitori maleducati che hanno figli maleducati. Veramente scandalosa la questione della maestra. Un bambino che addirittura ha un ottimo rendimento, esprime in maniera non volgare, mi sembra, fuori testa e sclerata, non sono insulti volgari, liberamente il suo pensiero e vengono puniti i genitori in maniera amministrativa. Vabbè, libertà di espressione. Salutami, viva dittatura. Caro ascoltatore, sta facendo il papà. Hai sentito Leonardo Manera? Sta facendo il papà. Sta facendo il papà. Sì, intanto cerca di mandarci un messaggio. Bimbo in sottofondo, un bambino piccolo tra l'altro. Quindi esatto. Solidarietà a questo papà, perché i bambini piccoli sono difficili da gestire. Avrà dei problemi questo papà. Difficoltà, fatica. Sì, è inutile negarlo. Sì. Per i Ciao, primi 12 Leonardo. Anni di vita è così. Buongiorno a Eccolo tutti. Eccolo lì, ti prego, dai, ecco, fai un profilo a questo papà ascoltatore. Certo, quando nasce un figlio sembra il momento più bello della vita, perché da lì ti immagini carezze, calore, affettività familiare. Invece poi, poco alla volta, ti rendi conto che la nascita di un bambino piccolo inevitabilmente allontana il padre dalla madre, i rapporti di ogni tipo si diradano e tu ti ritrovi a fare l'aeroplanino col cucchiaio per dar da mangiare a tuo figlio, pensando a come ormai è inevitabilmente cambiata la tua vita, che non tornerà mai più come prima. Caro ascoltatore, non è vero, viva la vita. Allora, hai sentito del ragazzino di quinta elementare che ha scritto sclerata la maestra? I genitori subito richiamati all'ordine e multati a 1.000 euro. Vabbè. Allora, ragazzi, come andremo in vacanza? Leonardo, tu sei pronto? Guarda, ho una buona notizia da dare. Conosco una persona che ha prenotato per quest'estate, sì? In una regione diversa da quella dove abita, sì? E gli hanno accettato la prenotazione, ma soprattutto gli hanno detto che fino a 5 giorni prima della partenza, eventualmente, se non potesse andare, può essere rimborsato. Quindi è una buona notizia questa. Bello. Beh, ma mi hanno detto i voli per la Sardegna sono già tutti pieni, ma che voli? Io, è bello, sì, si può prenotare, non lo so, sì, si può prenotare. Oh, allora, intanto, come si riaprirà, ragazzi? Gira, circola sui social questa cosa la geometria. Sapete che nei ristoranti bisogna stare, ogni cliente deve avere 4 metri quadrati. Allora, ieri un giornale ha pubblicato le distanze secondo la geometria, secondo la stampa italiana, è 4 metri per 4 metri di lato. No, quelli fanno 16 metri quadrati. Credo che in quinta elementare. Sei pignolo. Ma no, dai, vabbè, ma dai, scusa, ma la stampa che deve chiarire, la stampa italiana, e scrive: ecco cosa serve di distanza tra persone al ristorante, 4 metri per 4 metri, allora, di lato, quelli sono i 4 metri quadrati, invece sono 16, sono 2 per 2, sì. 2 per 2, ma 4, dai. Ognuno può dare interpretazioni restrittive, sì, invece aprono di più, no. Quindi hanno fatto Io l'ho messa dentro su Facebook, vabbè. Però voglio salutare e ringraziare, perché credo che alle 10 avrà un incontro in regione per capire la presidente dell'Associazione degli Albergatori di Rimini, Patrizia Rinaldis. Buongiorno Rinaldis, presidente, eccoci qua. Buongiorno a tutti. Si sorride qua, ma insomma, c'è poco, sì. qualcuno dice c'è poco da ridere, ma in realtà. Allora, poi sulle spiagge, certo, io capisco, forse ho capito perché ci vogliono 5 metri sulle spiagge di distanza, mentre 1,5 metri o 1,80 metri sui mezzi pubblici. In spiaggia ci si sposta, no? Quindi forse è quella la ratio per cui dice state più larghi, perché poi ci si sposta. Ma voi come alberghi avete capito cosa succede? È un casino, ragazzi. Sì, viviamo nella totale incertezza e credo che più che preoccuparci come faremo, io credo che il problema grosso è capire se quel turista che ha prenotato, quanti sono i turisti che stanno prenotando, perché questo è il grosso problema. Oggi mi dicevano che la Svizzera, che è poi sul sito del governo, ha fatto accordi con l'Austria e la Francia per aprire le frontiere, stessa cosa ha fatto la Germania, l'Italia viene esclusa dalle rotte internazionali. Noi non lo so quando, come, non lo sappiamo, però è un grosso punto interrogativo. Cioè, gli stranieri prenotano, si sa che la Riviera Romagnola è presa d'assalto, no? Dagli stranieri di solito. Quest'anno? No, era presa d'assalto. In questo momento con le chiusure delle frontiere non sappiamo come faremo, ma non lo sanno neanche loro. Ripeto, ci sono accordi con altri stati, non col governo italiano. Questo è un grosso problema. Oltretutto la Germania avrebbe anche la facilità di raggiungerci con la macchina, quindi il nostro turista tedesco, questo vale per noi ma anche per altri territori, è abituato e predilige la macchina fondamentalmente, quindi anche questo valore competitivo lo stiamo perdendo. Perché comunque la gente, è vero, anche noi diciamo non vi preoccupate, fate tempo a prenotare. Non c'è neanche più il problema di dire 5 giorni prima vi rendiamo la caparra, perché ormai non ha più nessun valore, non sappiamo neanche quando potremo riaprire. I numeri le stiamo dando, quando lei parlava di distanza, noi oggi ragioneremo sul protocollo per gli alberghi della regione Emilia-Romagna. Poi arriva il documento dei LINAIL, è un documento, che valore ha questo documento? Ne abbiamo parlato prima con Farinetti, cioè l'imprenditore rischia, ma nel senso, su tutti i giornali, l'imprenditore rischia una causa se si ammala un dipendente perché è un infortunio sul lavoro. Lei su queste basi... No, è che i dati che dà... No, questo lo so, e questo per noi è il problema più grosso. Non solo quello, il rischio che si mette in quarantena tutto l'albergo. Quindi anche questo... Quindi si chiude tutto. Si chiude tutto. Ma l'INAIL, nelle indicazioni che dà misure diverse da quelle che sono nei protocolli. Quindi i numeri o la matematica, come dicevate prima, che non è un'opinione, forse ci dovrebbe essere un accordo. Ecco, quello che dice l'INAIL, poi lo spostiamo sui protocolli, quello che è sui protocolli lo spostiamo sull'INAIL, ma noi viviamo in questa situazione. Quindi addirittura l'INAIL dice una cosa diversa, misure diverse da quelle che sono, potrebbero essere approvate nei protocolli regionali. E poi anche qui, poi ogni regione fa i suoi, io ancora non ho capito, mi scusi, ma ancora non abbiamo capito. Io credo che la sicurezza sia una e unica per tutti. Sì, il tema è appunto capire, cioè avere delle certezze. Lei oggi in regione uscirà dalla regione con qualche certezza, pensa, come rappresentante del Borgatore di Rimini? Noi speriamo di avere qualche certezza, ma i presupposti in realtà delle responsabilità sono quelli che peseranno di più sulla decisione, sulla sostenibilità. Vi faccio anche solo un altro esempio. Gli alberghi, molti alberghi resteranno chiusi. Bene, ad oggi non sappiamo se un albergo è sospeso, è chiuso, per quale motivo deve pagare la Tari? A nessuno riesce a darmi una risposta su questo, perché sì. Arera, perché comunque... le tasse, voglio dire. Certo, no, certo. Non gliela danno la risposta, tranquillamente. Sì, sì, le tasse si pagano comunque, le diranno così. Insomma. I comuni rischiano il default, ma le strutture, quindi le imprese, rischiano il fallimento. Quindi io credo che oggi come oggi, perché abbiamo vissuto fino ad oggi, viviamo nella totale incertezza, l'abbiamo detto tutti, l'avete ripetuto 100.000 volte, non abbiamo ancora visto nulla sul turismo, io non mi preoccupano i protocolli, le nostre aziende possono essere anche pronte a riaprire, ma quali sono i punti interrogativi? Conviene aprire? Che sostenibilità c'è? Sul mercato internazionale non possiamo fare riferimento, su quello di prossimità non lo so, siamo in tanti, ci dobbiamo giocare il territorio italiano, non glielo so dire. Io credo che saranno veramente grandi punti interrogativi, forse ci vuole la sfera di cristallo per dare una risposta. E non abbiamo nessuno, perché abbiamo visto fino adesso cosa è successo. Tra l'altro, se si trova una persona positiva e poi bisogna mettere tutto l'hotel in quarantena, insomma, è presumibile che qualche positivo ci sarà comunque, diventa poi un problema grosso. Con dipendenti e turisti, dipendenti e turisti. Sì, nonostante che sia stato detto che poi se ne fa carico il sistema sanitario, ma questo non è sufficiente, perché poi deve ricostruire il percorso di quel turista o di quel dipendente. Poi entrare in merito. Ma poi con queste premesse, chi è che si mette in un albergo col rischio di dire oddio, trovano il vicino di stanza positivo, devo stare 14 giorni, cioè le mie vacanze diventano sto una 15 giorni. In realtà 15 giorni qui. In realtà dovrebbero fare in modo che si torni a casa, perché poi venga accertato. Perché questo terrorismo mediatico, mi scusi, noi partiamo d'estate, noi abbiamo influenze di bambini, di dipendenti, li abbiamo quotidianamente. Oggi è un grido di allarme ogni starnuto. Quando ci sarà la prima linea di febbre sarà un disastro. Ecco, facciamo vivere le persone nel terrore, perché le abbiamo abituati a questo, cioè non a superare o a diagnosticare. Oggi lo starnuto o la linea di febbre, che era l'insolazione, il bambino ha la febbre, ha preso un'insolazione, non si preoccupi, girava tranquillamente. Oggi cosa fai? Oddio, chiamo il servizio sanitario, mi arrivano. Ecco, io credo che forse anche bisognerebbe anche ridimensionare questo allarme, perché noi vogliamo offrire una vacanza, non vogliamo offrire una situazione, dico sempre, H di hotel, non di ospedale, cioè. Vorremmo che dopo questo lungo lockdown ci fosse la possibilità di respirare, abbiamo gli spazi. Non è male, questa gliela ruba Leonardo Manera come battuta in uno dei suoi spettacoli, la H di hotel e di ospedale. Allora facciamo così, Presidente, la lasciamo alla riunione in Regione, ripeto, Patrizia Rinaldi, se è presidente dell'Associazione Albergatori di Rimini. Arriva un messaggio straordinario, da quello che si legge con tutte queste limitazioni saranno vacanze molto tristi, l'ideale per Manera. Andiamo andiamo al traffico. Grazie, doveva scrivere grazie, l'ideale per no, doveva dire saranno vacanze molto amare, non tristi, amare. Molto amare, amare. Andiamo al traffico, poi cercheremo di capire cosa succede, cosa può succedere sugli stabilimenti, negli stabilimenti balneari, perché ci sono le applicazioni, ci sono i programmi per garantire i distanziamenti sociali. Tra un attimo. Uno, nessuno, 100 Milan. Milan, dillo a Di Maio, ministro degli esteri, che tutti pagano, prova a dirglielo, che ieri ha detto che non si è pagato niente, che lui non ne sapeva niente, e al ministro degli esteri. Uè, Sure Milan, ma questi giornalisti sono stati multati come i ristoratori o via, via, via, tutti a casa propria e nessuno ha pagato? Uè, Alino Milan, oggi faccio gli anni, 50 anni, dai comunistello, fammi gli auguri al tuo amico leghista, leghista tesserato Fabietto della Brianza. Vabbè, vabbè, dai. Allora, ma questo Di Maio ha detto, ma ragazzi, ma cioè bisogna dire così. Ma si chiamano servizi segreti, ministeri degli esteri, perché bisogna dire così. Smentiamo di aver pagato, vogliamo sentirlo, dai, Peter, fammelo sentire. Mamma mia, ma ci sono delle cose che vanno dette, cioè sono imposte da situazione, non ce l'abbiamo. In realtà perché ce l'abbiamo, sì. Un terrorista che viene intervistato e dice una cosa, la sua parola vale più dello Stato italiano. A me non risultano riscatti, altrimenti dovrei dirlo. Aspetti, e le posso dire Mario Giordano che fa anche lo stupito. Non le risulta, ma certo, bisogna dire così. Questo viene detto così. Dopodiché, punto, a capo, tutti pagano, tutti, anche gli americani, anche gli inglesi, tutti, però tutti devono smentire, basta, cioè mettetevi in pace, il cuore in pace è così, certo, se rapisco in maniera, io non lo so se... Io non lo so se rapissero Manera, se pagherei. Lo Stato italiano, se lo ma io penso di sì, sono una riserva della nazione, io sono una riserva dello Stato. Sì, dice. Va sì. Bene, va bene. Salutiamo Alberto Parma. Alberto Parma, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Alberto è uno degli ideatori di una di queste piattaforme, la piattaforma è Beach Around, per esatto. Prenotare ombrelloni orario d'uso, cioè è incredibile, dobbiamo abituarci a questo, cioè, insomma come funziona Beach Around? Sì, allora è una piattaforma web, quindi è proprio un sito, non è una sì. App che si deve scaricare, su cui ci si deve registrare, è disponibile per tutti. Dove le persone possono ricercare gli stabilimenti balneari andando a selezionare la località e gli eventuali filtri che corrispondono ai servizi offerti dai vari stabilimenti balneari. Facendo così perfetto. Si trova, diciamo, la spiaggia che corrisponde alle proprie esigenze. Una volta trovata la spiaggia si ha due modi per prenotare. Uno è il modo più semplice, cioè chiamare, quindi come si prenota diciamo un ristorante. L'altro modo invece è tramite un modulo precompilato, dove ovviamente si vanno a specificare tutte le esigenze, ombrelloni, lettini e orari di accesso alle spiagge. In questo modo sì. Si riesce un pochettino, magari cerchiamo di aiutare a contenere quello che può essere il flusso intorno alle perfetto. Spiagge. Visti allora, siccome dite problemi, che parte il 18, siccome dite che parte, però io vedo già beacharound.com, questo è il sito, sì, sono allora, già dentro, inserisci sito, la destinazione... Esatto, funziona? Allora la piattaforma è già online in perfetto. Realtà dal 25 di aprile, ovviamente non dobbiamo contattare, stiamo contattando tutti i vari stabilimenti balneari, anche se comunque già a database ce ne sono più di 6.900, quindi sono perfetto. Parecchi, stiamo contattando tutti gli stabilimenti balneari per fare in modo che aderiscano al progetto, quindi si iscrivano, è un'iscrizione totalmente gratuita, quindi possono farlo tutti i gestori degli stabilimenti balneari E in questo modo gli diamo anche la possibilità di inserire eventualmente anche il proprio listino prezzi, il proprio tarifario, per comunicare poi alle persone informate una sorta, cioè, uno di va lì e vuole selezionare in base alla località e la spiaggia per vedere le disponibilità. Guarda un po', Leonardo, ci sono anche poi le varie opzioni, cioè puoi mettere la spiaggia, quelle con la piscina, quelle dove ti fanno le lezioni di yoga, dove ci sono i giochi per bambini, Leonardo punterà a questa, quella dove ci sono i giochi per bambini, certo. Così è quelle, ma a me piace giocare a pallone con i bambini piccoli, così faccio bella figura con i bambini di 2-3 anni, così posso battere. Li umili così. Ma sarà vietato? Forse sarà vietato, no, racchettoni, sì, forse, no, ma ragazzi, ma io forse sarà so, vietato, sper- forse invece sì. qualche cosa magari più individuale verrà permessa, vediamo un po' individuale. Cioè, individuale cosa? Sì. Cioè, quelli che fanno le verticali, ti fai un castello di sabbia? Allora, no, parliamo eventualmente di windsurf, tutte le attività che si possono fare eventualmente individualmente a spiaggia. Sarà contento il nostro Lorenzo Nespoli, che ogni tanto va in giro per il mondo a fare, sì, questo, cos'è, kitesurf, credo, queste cose da matto in giro. Potrà sapere, ecco, gli stabilimenti balneari che propongono quel servizio. Quindi beach around, ma dobbiamo abituarci così, Alberto? Cioè, allora, po' triste, cioè, va bene, si fa di necessità virtù, ma è un pochino così. Allora, io amara penso che sia un passaggio che in realtà negli anni prossimi sarà quasi obbligatorio, cioè nel senso, come esistono già tantissime piattaforme, tantissimi motori di ricerca per hotel, ristoranti, ci sembrava giusto magari proporre lo stesso servizio, tutto al più gratuito, per gli stabilimenti balneari, quindi una piattaforma unica in cui si possano ricercare tutte le informazioni e dare disponibili ai turisti tutte le informazioni che si possono avere per gli stabilimenti balneari. Molto spesso sì, io sono abituato a persone che ovviamente girano per gli stabilimenti balneari, girano sulla passeggiata del lungomare per cercare informazioni, perché molto spesso non sono così reperibili. Invece in questo modo, ecco, magari si riesce ancora prima ad avere questo tipo utile, di informazioni. È utile, mi sembra una delle innovazioni che rimarranno anche dopo il coronavirus. Anch'io, sì, esatto. Io faccio sempre così, vado, chiedo, c'è un ombrellone, nel frattempo la giornata passa, mio figlio si lamenta, io mi nervosisco e si torna a casa. Anche per chi magari va semplicemente al mare in giornata, no? Decide magari la sera, la mattina può svegliarsi magari con un po' più di calma per non avere, insomma, tutta quella fretta di andare presso lo stabilimento cercare di prenotare il proprio posto. No, ma la fretta non fa parte di Leonardo Manera, questo l'abbiamo capito. Okay. Ricordiamo anche la sua tragica esibizione in montagna invece con Beniamino, poverino, a sciare, cioè, vacanza interrotta a metà, perché c'era un po' di bambagia nello scarpone. E lui si lamentava tantissimo col figlio che non riusciva a infilare lo scarpone, ma non gli aveva tolto la carta che c'era sullo scarpone. E questo, non me ne ero accorto, può capitare. È tornato a Milano in anticipo dicendo basta, non si può più sciare, andiamo via. Vabbè, allora ringraziamo, io me lo vedo proprio, la vedo la scena. Ringraziamo Alberto Parma, beacharound.com. Ci scrivono: anche la Croazia ha aperto i confini. Ragazzi, è tutto molto bello, ma se la Croazia apre i confini, ma io non posso lasciare la Lombardia, come faccio ad andare in Croazia? Mi catapultano. Dicono dal primo giugno, no? Forse dal primo giugno. Forse, sì, prima o poi, non si sa di che anno. Ho capito qual è il modello Italia, sai? Il modello Italia si può sintetizzare in una sola parola, che è forse. Forse. No, era meglio la formula che avevi usato un po' di tempo fa, com'è che era? Sì, no, meglio di no, però sì, a patto che. A patto che, mi sembra giusto. Dai, andiamo al giornale radio, poi ripartiremo con il buon Leonardo Manera, che pensi di averla scampata e invece ti tocca il pezzo. Poi oggi guardate che Leonardo ci lancia un'iniziativa straordinaria alle 10.45, straordinaria per lo spettacolo, tra poco. Uno, nessuno, 100 Milan. Dai, Alessandro Milan, lo sapevamo tutti che per liberare la ragazza lo Stato avrebbe dovuto pagare. O cambiamo completamente politica. Ma comunque lo sapevamo tutti. La rivolevamo a casa? È tornata a casa. Sapevamo che avremmo pagato il riscatto? Lo sapevamo. Di Maio ha detto che a lui non risulta che sia stato pagato un riscatto per Silvia Romano. Quindi è una conferma che è stato pagato un riscatto. Milan, quest'anno il sole lo prendo in terrazza, perché se devo andare al mare, spendere soldi con tutte quelle regole e stare peggio di come sto a casa, mi conviene appunto stare a casa e tanti faranno così. Sì, certo, io non lo so, su Viale Monza a Milano lo trovo un pochino triste, insomma troverò una soluzione. Tu come sei messo? Tu avrai anche il pipistrello che intanto che prendi il sole, Leonardo, sta lì e ti guarda, e ti guarda. Ci sarà il boom delle seconde case o delle case in affitto, immagino, perché effettivamente se si ritroverà qualcuno positivo in hotel, poi cosa fai? Diventa un problemino, sì, o no? Sì, sì. Assolutamente sì, infatti. Vabbè, allora non so più come dirla la questione del riscatto. Cioè, è chiaro che abbiamo pagato il riscatto, come è chiaro che pagano tutti. E uno mi ha scritto: bugiardo, gli americani e gli inglesi non pagano. Uno che crede a queste favolette, va bene, se vuoi credere anche a Pollicino e a Cenerentola, caro ascoltatore. Ma sai che io credo che nessuno sappia veramente com'è, cioè come funziona ogni stato, chi lo sa? Tu hai questa convinzione, ma guarda, non so oggi, se per pagano esempio, tutti, paga nessuno. Ma sì, dimmi. Ma oggi sulla verità c'è a firma agente segreto, mi dà l'idea che sia uno pseudonimo, firma un lungo articolo un agente segreto appunto a raccontare che tutti pagano, semplicemente c'è chi proprio paga con le borse di dollari e chi magari, che ne so, incarica una società assicuratrice di fare casualmente dopo la risoluzione del sequestro un pagamento a una società del paese dove è stata sequestrata la persona, c'è chi paga in infrastrutture, c'è chi paga attraverso la costruzione di qualcosa, c'è chi dà dei soldi a delle società che sono in realtà affiliate ai terroristi e c'è chi invece proprio paga coi borsoni di dollari. Ma secondo te uno perché rapirebbe una persona? Per fare le olimpiadi dei riscatto, rapimenti? Per avere un riscatto, allora, cioè, poi, certo. Dire, per ottenere magari per ottenere in cambio il rilascio di alcuni in prigione, anche questa è una forma di pagamento. Comunque qualcosa devi dare in cambio, se no perché uno rapisce una persona? Per sport? No, per ottenere qualcosa in cambio. Ma è una roba talmente ovvia che a volte le cose più ovvie non vengono prese in considerazione. Insomma, quindi pagano tutti, semplicemente la differenza è chi è in grado pubblicamente di smentire in maniera ferrea, come gli americani, ci hanno costruito una politica, non si tratta coi terroristi, tu lo dici così da 100 anni, poi in realtà paghi, però con la faccia pubblica lo dici così e la gente crede a quello. Anche Di Maio ha detto non abbiamo pagato, non mi risulta, perché a lui non si crede, povero Di Maio, no, mi dispiace per lui, non crede nessuno Di Maio. Ma perché l'ha detto dopo 4 giorni? Non ti credono. Questi maledetti italiani non ti credono, Luigi. Vieni qui che ti consolo io, ti offro un caffè al bar Jimmy a Sporto. Va bene. Pronto? Attenzione, però è successo questo, attenzione, caro Leonardo, prima del tuo pezzo, poco fa, ringrazio la redazione straordinaria e repentina di Uno Nessuno 100 Milan, la nostra Elisabetta Fosconi, Lorenzo Nespoli e Miren Lucchetti, poco fa è stata sospesa la seduta alla Camera. Perché? Perché un deputato della Lega, parlando di Silvia Romano, l'ha definita la neoterrorista. Senti qui, senti. Questi DPCM che hanno disciplinato persino le cose più inverosimili, quante persone devono entrare in un funerale. Abbiamo assistito a un figlio della patria, un poliziotto che è morto, il suo al suo funerale erano presenti 15 persone, nessuna autorità dello Stato presente. Poi però abbiamo osservato che quando è venuta la neoterrorista, visto che è risaputo che Shabab questo è e questo finanzia, e evidentemente Credo che Repubblica l'abbia definita neoterrorista. Credo che riferirsi a Silvia Romano utilizzando il termine di neoterrorista sia alquanto improprio. Quindi, eviterei soprattutto di nota gli eufemismi e la classe alla Camera, alquanto improprio. Secondo Mara Carfagna, che presiedeva, è alquanto improprio. A me pare una puttanata colossale, ecco, se proprio dobbiamo definire. Però Mara Carfagna, dalle istituzioni, bisognerebbe recuperare l'audio dei 3-3, il gruppo comico 3-3, che in certi momenti loro schiacciano, ma pare una stronzata. Ecco, se Lorenzo Nespoli qualcuno la può recuperare e metterlo così ogni tanto potremmo rispolverarlo, cioè, capito? Ha definito Silvia Romano una neoterrorista, deputato della Repubblica Italiana, pagano. Tra l'altro poi quando gli hanno detto io citavo Repubblica per la questione di Al-Shabaab, non credo che Repubblica abbia definito però neoterrorista Silvia Romano. Vabbè Leonardo, dai, ritorniamo in noi, a te il microfono. Allora, quando tra qualche tempo non parleremo più di coronavirus, tutti saremo tornati come prima o peggio di prima, forse peggio, considerate le reazioni di odio che si sono scatenate nei confronti appunto di Silvia Romano. Tutte le pubblicità buonine di bambini felici, padri, madri sorridenti si sono azzerate in un attimo alla prima occasione in cui l'odio ha nuovamente potuto venire a galla. Ma quando il coronavirus non ci sarà più o sarà contenuto definitivamente, ci ricorderemo di quanto ci siamo divisi noi italiani riguardo al virus in due grandi categorie, quelli che minimizzavano e i preoccupatissimi. Oggi vorrei occuparmi di come si sono comportati i preoccupatissimi. Parlerò già al passato per esorcizzare i problemi del presente. I preoccupatissimi, appena rientrati a casa, non solo lavavano le mani col sapone, come ci ha insegnato Barbara D'Urso, ma dopo essersi lavati le mani col sapone, lavavano il sapone con la mucchina. I preoccupatissimi andavano a fare la spesa e poi disinfettavano tutti i cibi senza risciacquarli dopo per essere più sicuri. Però poi i preoccupatissimi andavano al supermercato a lamentarsi e dicevano al fruttivendolo: «Uè, l'insalata aveva un sapore strano, sapeva di candeggina». I preoccupatissimi, se per caso si rompevano un dito, non andavano al pronto soccorso per paura di prendere il virus. Piuttosto, se il dito gli faceva male, se lo amputavano da soli a casa, dopo aver disinfettato e provato la febbre al coltello. I preoccupatissimi avevano capito che il coronavirus si prende con le goccioline di saliva, perciò se parlavano con qualcuno gli dicevano «Parla a bocca chiusa, parla a bocca chiusa!». I preoccupatissimi ascoltavano in TV tutti i virologi dalla mattina alla sera e alla fine avevano capito che l'unico modo per non prendere il virus era murarsi in casa, non uscire mai più, come il conte Ugolino, che infatti non è morto di coronavirus. I preoccupatissimi erano terrorizzati soprattutto dagli asintomatici. Perciò se stavano bene avevano paura di essere asintomatici e di potersi autotrasmettere il virus. I preoccupatissimi, quando si specchiavano, stavano a un metro di distanza da se stessi. I preoccupatissimi, quando facevano l'amore per evitare il contagio, usavano i gomiti. I preoccupatissimi, quando uscivano, tenevano sempre i guanti in lattice. E quando li toglievano di sera, dopo un giorno intero, al posto delle dita avevano delle salsicce. I preoccupatissimi, se in casa gli veniva a starnutire, prima mettevano la mascherina, ma poi si accorgevano che non fa un bel effetto. Finché un giorno il coronavirus svanì, come era arrivato se ne andò, ma i preoccupatissimi erano così preoccupati che non si tolsero mai più la mascherina, così se fosse tornato loro sarebbero già stati pronti ad accoglierlo, rimanendo per sempre a un metro di distanza dalla vita. Vabbè, bravo, bravo Leo, un bel pezzo. Sai cosa penso di questo pezzo? Ma pare una stronzata! Vabbè, scusa, a questo sono punto vittima, sono vittima del mio stesso consiglio. Vabbè, d'altronde te la sei un po' cercata e chiamata. Bello certo, questo pezzo. Ogni tanto sappi che quando ci farai arrabbiare. Bella a questa idea. Ma parla strunza. Uno di loro tre fu il mio primo responsabile di un programma al Seven Show nel 1996. Ma chi se ne frega? Oggi niente, sono ben voluto, devo dire. Ti giuro che stavolta io non ho fatto niente. E quindi va bene. Adesso allora andiamo alle informazioni sul traffico. Poi avremo ospite il sindaco che è andato, quello che è andato in bicicletta, è arrivato da Conte. Ti ricordi quello che voleva dare 600 euro, voleva restituirglieli? Sì, penso anche che non abbia avuto rosso. Soddisfazione. Ricordo. Beh, ma penso che no, si sono incontrati, cioè Conte l'ha ricevuto. Sì, certo. Sì, ma poi hanno avuto problemi con l'INPS, a quanto ho capito. Adesso ci racconterà lui. Adesso ci racconterà. Poi qualche ascoltatore, se volete, 800 24 00 24. Dopo facciamo risentire il deputato Pagano della Lega, che ha definito neoterrorista Silvia Romano. Terrorista, capite? Una che è stata 18 mesi sequestrata si viene sentita anche, viene definita, si deve sentire appellare neoterrorista. Vabbè, traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. A Di Maio non risulta che sia stato pagato un riscatto? Manera, hai ragione, sei la riserva della nazione, costantemente in panchina, seduto, triste. Niente, vabbè, oggi fermiamoci qui perché lui poi queste cose le prende male e insomma... Somatizzo, mi viene anche la febbre e poi mi bloccano in casa finché non mi fanno il tampone. Allora c'è Sofì, giusto, da Treviso. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Allora, io volevo fare una riflessione, anzi ho fatto una riflessione sulla ripresa degli spettacoli, pensando che... Lei è francese di origine, Sofì, sì, straordinario. Sì, straordinario. Sì, francese. Se lasciano riprendere le messe, non vedo perché non possono lasciare rifare anche gli spettacoli, nel senso che lo scenario è esattamente lo stesso. Cioè, una persona sul palco col pubblico davanti. Da non lo dica Leonardo Manera, fedeli, lo dico Leonardo. Proprio per lui invece, proprio per lui. E dall'altro Leonardo Manera sul palco col suo pubblico davanti. È esattamente lo stesso scenario, per cui devono battere su questa cosa qua, perché non c'è motivo di non lasciare riprendere uno spettacolo, specialmente un one man show dove c'è una persona sul palco e tutta la gente è distante. Leo, è la cosa dici, che è stata detta da molti, ma ringrazio Sofì, ma lo spettacolo non ha la stessa forza della Chiesa, purtroppo, quindi penso che ci sarà qualche difficoltà in più a far accettare questa la forza cosa. Politica, la stessa forza, certo, politica, la forza tu politica, dici, la stessa capacità Chiesa, di farsi, come dire, di battere qualche pugno sul tavolo. Sì, sì. Tra l'altro, Leonardo, ho visto che in maniera preoccupata qualche giorno fa hai pubblicato, senza commenti, di solito commenti qualcosa, invece su Facebook hai commentato questa notizia di chi vorrebbe gli attori con la mascherina sul palcoscenico, gli attori in maschera, per carità, ci sono delle recite in maschera. Che ne pensi con la mascherina? Ma un conto è se usi la maschera della commedia dell'arte, insomma, che tra l'altro quasi sempre lasciava la bocca scoperta, ma mi sembra improbabile, soprattutto per chi fa one man show, insomma, lavorare con la mascherina si perdono le espressioni. Insomma, ci vorrebbe la frase che tu mi hai fatto sentire orora riguardo al mio... Vi faccio notare però le capacità deduttive di Alessandro Milan, che sentendo una signora che si chiama Sophie e parlando un po' con la R, ha detto: ma lei è francese, caspita, che deduzione. poteva essere belga, alla quale non saremmo mai arrivati, veramente. Grandi capacità no, deduttive perché... di Alessandro Milan, il deduttivo. Ascolta, perché... Sofì poteva essere anche italiana, e poi quando ha iniziato a parlare ho detto: ah, ma lei è di origine francese. Allora, io mi chiamo Sofì, allora, monsieur, oh, ma sei francese, Alessandro il deduttivo. Il genio potresti definirlo, Alessandro. Dove sta il genio? Ecco, qui, in questo. Sei veramente terribile. Paolo da Napoli, buongiorno Paolo, eccoci. Buongiorno a voi. Sì. Buongiorno. Che allora, ci dice? Niente, non vi faccio i complimenti per la trasmissione, perché sinceramente apprezzo moltissimo i toni pacati del dottor Milan e il sorriso che ci regala Manera, per cui questo è, in questo momento è molto molto importante. Il tema che volevo sviluppare è uno spunto di riflessione. Quello che ho visto in quel filmato sinceramente mi ha lasciato un pochino perplesso, perché è bello rivedere una vita di una ragazza italiana che rientra in Italia e tutto questo è stupendo. Però ho visto anche questo aereo dello Stato. Non entro nel merito del riscatto e delle, diciamo così, dell'ovvietà di quello che avete detto, perché è sacrosanto e giusto, ma questo aereo, questi ragazzi vestiti di nero col passamontagna, che hanno veramente fatto un gran lavoro, perché hanno fatto un gran lavoro. Mm-hmm. E questa ragazza che scende e ostenta tutta questa passeggiata con questo vestito, che poi poteva anche scendere tranquillamente vestita da ragazza italiana, esattamente come partita, per uno scopo estremamente nobile, attenzione, sì. Perché sì, ma Paolo, io guardi, ho detto che è stata tutta una sciagurata esibizione, sì. Sbagliata, non da Silvia Romano. Ci sono rimasto male. Lei è tornata in Italia, ma non dovevano, certo, permettere le istituzioni l'ostentazione, ecco, di simboli che legano ad Al-Shabaab, cioè dei fondamentalisti. Non solo, mi permetta, gli spunti di riflessione sono grosso modo questi. Allora, l'aereo di Stato, va bene, i ragazzi dei servizi che sono esemplari e fanno un lavoro, sì, pazzesco, sì, rischiando la vita. Bene, lei che passeggia, addirittura si tira giù il velo per fare ciao ciao, eccetera, eccetera, poi si avvicina all'ingresso e dopodiché abbiamo il nostro Presidente del Consiglio, uno dei nostri ministri più importanti, sì, sì, cioè Di Maio, e lei li scansa completamente tutti, fanno un siparietto con la famiglia e il padre la fa entrare e riuscire, cioè, e loro addirittura con massima eleganza, Conte e Di Maio si sono messi da parte con la massima eleganza, devo dire, e per favorire tutte le foto, eccetera, eccetera. Signori, ma abbiate pazienza, ma c'è qualcosa che... In tutto questo, ho capito, però Paolo, allora è stata appunto secondo me anche un'esibizione sciagurata, ma non è che i familiari di Silvia Romano hanno chiamato le telecamere, cioè tutto questo è stato organizzato dalle istituzioni, l'arrivo davanti alle telecamere, cioè doveva arrivare ma senza le telecamere, cioè non è che, cioè, i familiari l'hanno riabbracciata perché dopo 18 mesi sa. Lei cosa farebbe con una figlia di 23 anni? Non si butterebbe addosso riabbracciandola dopo 18 mesi? Cioè, sono stati esibiti, sono vittime di questa cosa. Non è che hanno organizzato loro la passerella, come dice lei. In ogni caso, grazie. Eccolo qua il sindaco di Divignano, è tornato con noi. Buongiorno tutti, sindaco, buongiorno Gianluca Bacchetta. Gianluca Bacchetta è arrivato a Palazzo Chigi, è stato ricevuto, ci sono delle foto di ormai questo saluto gomito con il Premier Conte, gliel'ha data la birra, a me interessa la birra intanto, interessa la birra, gliel'ha consegnata perché lei aveva portato una birra da sporto. Sì, non era per il premio, la birra da sporto era per un cliente che me l'aveva ordinata e l'ho consegnata a destinazione, quindi questa era la scusa per poter violare, era la sua autocertificazione, diciamo. sì, è stata bella, esatto, l'autocertificazione di oggi quando me l'hanno chiesta in stazione, avevo scritto colloquio di lavoro con il primo ministro Conte, hanno strabuzzato gli occhi due poliziotti, non so se ci crederanno o meno, hanno poi voluto verificare la cosa, ecco, l'avevo scritto apposta. aveva scritto apposta. No, il sindaco di Divignano era partito in bicicletta, prima a piedi, poi in bicicletta. Com'è che è arrivato? Sempre in bici o è arrivato travolto, in moto? Sono arrivato, sì, sì, no, no, in bici, per restituire come provocazioni 600 euro che lui, in qualità di titolare di un locale, ha ottenuto. Esatto. Ne ho scroccati 600 al primo ministro e abbiamo fatto una donazione di 1200 euro alla Croce Rossa Italiana. Ah, che bello! Quindi 600 sono i suoi conti, ne ha messi altri 600. Esatto. Con tanto di bonifico, abbiamo pubblicato il doppio bonifico, quindi la Croce Rossa Italiana, sezione di Oleggio, provincia di Novara, ha ricevuto 1200 euro in donazione da entrambi. Domani sarò dal presidente della regione Cirio e ne scroccherò 600 anche a lui e lo obbligherò a fare la stessa cosa. Senti, le do l'indirizzo di casa di Leonardo Manera, lei si presenta lì, lui poi ci metterà un carico di generosità, insomma aggiungerà uno zero quando si distrae e faremo un bel 6.000 a Leonardo. Sei d'accordo? Però... il motivo per cui poi lei era andato fino là ha avuto soddisfazione completamente oppure no? Sì, ero andato là, adesso per parte, la parte seria della cosa, ero andato là per cercare comunque delle risposte, un pochettino stufo dai discorsi di piazza, dai discorsi di bar, perché noi italiani durante il campionato siamo tutti allenatori di calcio, durante recaduto il ponte di Genova tutti ingegneri, adesso col virus tutti i virologi e tutti economisti, ecco, io un po' stufo di questa situazione, sì. Era questa la mia decisione, sono stato ricevuto da una persona educatissima e gentilissima, poi possiamo avere sicuramente magari idee diverse, però sono stato accolto, sono stato messo a mio agio, è stata una chiacchierata di più di un'ora, quindi non mi ha liquidato anzi ha interrotto il Consiglio dei Ministri per parlare con me per più di un'ora, quindi abbiamo telefonato durante la nostra chiacchierata al presidente dell'INPS Tridigo per cercare di capire un po' cosa è successo con le casse di integrazione in deroga, abbiamo telefonato al professor Brusaferro per cercare di capire quali potrebbero essere le tempistiche. Ragazzi, ma questa è la nuova politica, Leonardo, cioè il sindaco di Divignano praticamente basta prendere la bicicletta, andare a Roma e farsi questa sgroppata, hai sentito? Cioè, Brusaferro, chi ha chiamato l'INPS, ha tirato fuori dei soldi da Conte, fate tutti così, ragazzi, cioè, è stupendo. Poi abbiamo telefonato, ecco, qua ci sono state scritte delle inesattezze perché erano le 10 di sera oramai, abbiamo telefonato al presidente della regione Cirio che non ha potuto rispondere perché era in conferenza, poi sono state scritte che non si è degnato di rispondere, così assolutamente non è vero, perché la mattina dopo il presidente della regione Cirio mi ha telefonato e mi ha convocato e ho appuntamento domani alle 11, quindi anche lui Trump si è reso molto l'avete sentito, come sta Trump? L'avete chiamato? Lì non poteva rispondere per il fuso orario. No, però è bello, insomma, il sindaco di Divignano ha fatto questa iniziativa che è partita, come ci ha raccontato lui, così mi sono svegliato una mattina, ho detto adesso io vado a piedi a Roma a restituire polemicamente questi 600 euro, invece vede, mi sembra che sia stato accolto bene e si è anche trasformata ha portato avanti delle istanze da sindaco di un piccolo paese. Quanti abitanti fa Divignano? È piccolino, 1400 abitanti, 1400. Oggi sono contento di riabbracciarli virtualmente tutti perché rientro oggi pomeriggio. In bicicletta, non in bicicletta, sto rientrando in treno. Sta entrando in treno. Sì. Leo, te le immagini la faccia di quei poliziotti che leggono motivi, autorizzazione, colloquio con il presidente del consiglio? Hanno pensato il solito mitomane. Sì. Va bene. Sindaco, grazie per essere stato con noi. Vabbè, dopo tutto è stata un'iniziativa che ha portato molti, molti buoni risultati, se ho capito bene. Allora, andiamo a sentire la borsa e poi dopo torniamo con noi. Tra poco Leonardo ci spiegherà questa iniziativa che lancia insieme a diversi colleghi per lo spettacolo. Questi DPCM che hanno disciplinato persino le cose più inverosimili. Quante persone devono entrare in un funerale? Abbiamo assistito a un figlio della patria, un poliziotto che è morto, e cui al suo funerale erano presenti 15 persone, nessuna autorità dello Stato presente. Poi però abbiamo osservato che quando è venuta la neoterrorista, visto che è risaputo che Shabab questo è e questo finanzia, e evidentemente sto citando Repubblica, mi dispiace, una volta. Onorevole Pagano, credo che riferirsi a Silvia Romano utilizzando il termine di neoterrorista sia alquanto improprio. E quindi, eviterei soprattutto di farlo in quest'aula. E quindi... Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, siamo qui, caro Leonardo, sono le 10:37 minuti, attenzione perché c'è la notizia che in realtà un po' si sapeva, secondo il vice ministro della salute Sileri, rullo di tamburi, sei pronto Leo? Sono dal primo giugno, dal primo giugno probabilmente si potrà passare da una regione all'altra anche per la Lombardia. Primo giugno, segniamo, ormai i nostri calendari sono tutti con dei cerchiolini rossi. Prima era il 4 maggio. Il giornale radio di prima, lo ha detto, sì, la sua, sì, collega, sì, certo, detto, forse dal primo giugno, forse. Ma non devi forse dare queste certezze immotivate. No, infatti ho detto forse. Attenzione, c'è anche una reazione adesso, c'è bagarra alla Camera dopo che il leghista, l'onorevole Alessandro Pagano, ha definito una neoterrorista Silvia Romano, no? Con la reazione da parte di Mara Carfagna, presidente della Camera, e poi la reazione un po' di tutti per questa definizione. E vabbè, è così. Ci vuoi anticipare qualcosa di questa iniziativa di cui parleremo tra poco, caro Leo? Allora, siccome il mondo dello spettacolo, come ben si sa, è in grande difficoltà, io e una mia collega che si chiama Laura Magni abbiamo pensato a un'iniziativa che si chiama Un pacco per lo spirito, perché pensiamo che lo spettacolo sia utile per lo spirito. E allora cosa chiediamo? Non chiediamo soldi, questa è già una cosa secondo me interessante, non chiediamo di riprendere subito a fare spettacoli, ma ci adegueremo ovviamente alle norme vigenti. Abbiamo però creato una pagina Facebook e abbiamo anche una mail che tra poco vi darà poi Laura Magni, dove vi chiediamo di mandarci un messaggio, possibilmente in audio, e dove ci raccontate in pochi secondi un'occasione in cui per voi lo spettacolo, assistere a uno spettacolo, è stato importante. Noi raccoglieremo queste testimonianze e in cambio cosa faremo? Vi manderemo un pacco personalizzato alla vostra mail, un pacco di alcuni minuti, 7, 8, 10 minuti, in cui alcuni artisti confezioneranno per voi un pacco per lo spirito, consistente in comicità piuttosto che poesia oppure musica. E quindi l'iniziativa sostanzialmente è questa. Lodevole. Ecco, questa cosa mi sembra di cogliere inutile. Sembra un po' una dichiarazione alla di... No, mi sembra una dichiarazione alla Di Maio. Io, Leonardo Marera, che non chiede soldi. Devo dire, lo voglio chiedere a Laura Magni, perché di te, insomma, io non è che mi fidi proprio ciecamente. Vediamo un po', buongiorno. Sono buongiorno. Dentro? Sì, sei dentro, sei dentro. O sei fuori, ecco, cioè Leonardo è fuori e invece fuori tu sei dentro. Sempre, uguale, sono una degna compare. Buongiorno a tutti, ciao Leo. Ciao Laura. Ciao, in realtà buongiorno. È un'iniziativa bellissima. Io tutti i modi per criticare Leonardo a me vanno bene. In realtà, Laura, spiegaci meglio questa iniziativa, che secondo me è geniale, anche perché poi daremo la mail e poi vi toccherà lavorare. Vai, esattamente. Laura. Allora, non so cosa abbia detto Leo, però insomma, come ben sapete, è un periodo in cui ci manchiamo, no? Nel senso, a noi attori, comici, manca ovviamente stare a contatto con il pubblico, proprio perché il pubblico non lo vediamo in quanto le trasmissioni sono sospese. E quindi ci chiedevamo come poter in qualche modo recuperare, al di là insomma della situazione contingente che ci spinge per forza di cose ad aspettare di risalire sui palchi, come recuperare un rapporto con la gente, col pubblico, e come invitarli proprio a capire se c'è ancora questo rapporto, no? Noi crediamo di sì, e allora abbiamo chiesto, ma se noi vi chiedessimo cos'è per voi lo spettacolo, cosa ha fatto di particolare, di importante in un momento della vostra vita, che tipo di mancanza sentite rispetto a non andare a teatro, a quello che può essere per voi una performance teatrale, comica, no? E allora con Leonardo ci siamo interrogati su questa cosa, è venuta in mente questa idea di un pacco per lo spirito, e un pacco per lo spirito nasce anche insieme a altre riflessioni che stiamo facendo con un gruppo di attori, un gruppo molto nutrito di attori che in questo momento per l'appunto si è riunito su vari tavoli, sto parlando di attrici e attori uniti, per appunto tentare di cambiare le cose. Per la prima volta diciamo si sta facendo un grande fronte da tutte le differenze, sì, che comunque ci sono nella nostra allora categoria. Visto che è stato fatto un paragone prima da un ascoltatore sull'idea, siccome ripartono, anzi la nostra Sophie, che era di che nazionalità, Leonardo, te lo ricordi? Io l'ho intuito, avevi capito che era francese, tu avevi capito con un grande colpo di genio. Allora la nostra Sophie ha detto: perché si può riprendere ad andare a messa e non andare a teatro? Allora io dico così: lo spettacolo mi manca più del rosario di maggio. Così io potrei mettere così: a me manca andare a teatro più che andare a recitare un rosario a maggio in una chiesa. Io mando questa bella spiegazione, questa ottima motivazione al sito Facebook. Dove lo mando questa mia? Allora c'è una mail, abbiamo istituito una mail per appunto un pacco per lo spirito @gmail.com, e c'è anche una pagina Facebook che è ancora, perfetto, diciamo, stiamo è in costruzione, è un po' come il sito di Manera, no, è un po' come il sito di Manera, sì. Alessandro, ieri con Leo ci interrogavamo su che foto mettere e ci siamo scambiati una tristissima, non so se Leonardo l'ha già citato, una tristissima foto di un microfono abbandonato su un tavolo, che in realtà sì, l'ho mandata io, è una foto amara, sì, si sa. No, permettimi solo di dire un'ultima cosa, se mi è possibile. Non è solo appunto cercare di far riflettere sulla nostra condizione, che sicuramente ci teniamo, ma è anche recuperare un senso di collettività, che è quello che poi dal teatro. Esatto, è quello che poi ispira tutte le azioni che mettono in comunicazione pubblico e artisti. Però siccome adesso vi toccherà lavorare, allora chiunque voglia mandare una mail a un pacco per lo spirito @gmail.com spiegando perché vi manca lo spettacolo, un qualcosa di possibilmente in audio, perché noi vorremmo raccogliere tutte le testimonianze, ecco, e poi metterle insieme. Vogliamo sentire le voci. No, anche perché quindi si associa un po' all'idea del pacco, no? Lasciato in questi giorni in che difficoltà, il pacco alimentare, no? Perché comunque un sacco di attori stanno come delle sentinelle sul territorio, appunto all'interno del tavolo che ti dicevo c'è Cittadinanza Attiva, che cerca appunto di recuperare questo senso di collettività. Ci sono delle azioni insieme a Un Pacco per lo Spirito, si chiamano C'è Posta per l'Arte, che cercano proprio di recuperare questa certo, domanda e risposta. E quindi noi chiediamo di, invece di possono anche scriverci, però secondo noi insomma una chiacchiera a volte è più diretta, è no? Bello, un c'è bel audio, calore. Quindi te mi manca un lo spettacolo audio. Per questo e voi in cambio gli restituirete, Leonardo, Laura, un audio, un pacco d'oro, no, un video insomma. Sì, un pacco audio, sì. Video, insomma sarà a sorpresa con tanti comici e attori che diranno la loro a nostro modo, quindi insomma vi daranno un pacco per lo spirito, ecco, cari ascoltatori. Esatto. Vi faranno sollevare un po' lo spirito così. Potete anche lasciarci un messaggio audio su Messenger. Ecco, anche se la pagina è ancora vuota, potete essere i primi a non rendere più vuota questa pagina con i vostri messaggi. Sì. Esatto. Pensavo dicesse come al solito potete lasciare anche dei soldi, come di solito fa lui, ma invece stavolta no, potete lasciare anche un obolo, invece no, Laura. Tieni tu alto l'onore, perché sì, sennò certo. Leonardo, guarda che se ne approfitta, teniamo tutti moltissimo a questo onore, no? E onere soprattutto, quindi niente, un pacco per lo spirito, c'è la mail, un pacco per lo spirito @gmail.com e c'è, come ha detto Leonardo, la pagina Facebook, che pagina al momento Facebook. Vi aspetta, nel senso che è lì, l'abbiamo lasciata perché tanti di voi sono più social magari con Facebook che con la mail, e quindi c'è Messenger e noi aspettiamo di sentire. Soprattutto audio, mi raccomando. Laura, ti mandiamo un grande abbraccio, allora buon lavoro, si può dire, visto che ci saranno dei pacchi da preparare e caro siamo Leo, andiamo a sentire le informazioni sul traffico. 1 nessuno 100 Milan. Allora, un pacco per lo spirito @gmail.com. Tu che cosa offri, Leonardo? Hai anche tu messo già in campo qualche tipo di prestazione personale? Granito Manera? Non ancora nulla, caro Alessandro. È vedrò svenuto. In base a quello. Non ci sono più, sono sparito? Non mi ci no, sento no, più. No, dico, cioè, di fronte a. Sei pronto a lavorare? Eri svenuto inizialmente. Vabbè. No, dicevo non ancora, adesso vedremo in base alle mail che eventualmente dovessero speri arrivare. Che ne arrivino poche, questo certo, ci così lavoro dicendo. Poco, naturalmente, sì. Giovanna da Perugia, dai Giovanna, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, che è bella voce squillante. È un piacere parlare con lei. Ma nostro, piacere nostro. Io l'ascolto eccoci. Tutte le mattine. Bene. Ecco. Volevo dire è diventato una consuetudine che il Consiglio dei Ministri lo fanno sempre di sera. Ma come mai di sera. Devono andare a consumare l'energia elettrica? Non lo so. Hanno ma tanto credo tempo che di giorno, perché devono andare di sera? Giovanna, avranno altri impegni di sera, cioè di giorno. Perché la corrente elettrica la paghiamo noi. Costa. Quindi lei pone questa questione. Come sì, mai fanno i consigli dei ministri di sera? Perché ce n'hanno perché tempo consuma. Abbastanza e non c'è bisogno di andare a consumare acqua nei bagni. Carta igienica nei bagni. Leonardo, mi sembra che Giovanna potrebbe essere il primo pacco per un pacco per lo spirito. No, chiocciolagmail.com. Io capisco tutto, ma alla rispetto signora, perché alla signora darei il premio della polemica sterile, perché adesso con tutto il bene che si possa voler signora, cioè, ci faccia capire, scusi. In questo periodo ci sono tante cose da fare. Ma io voglio approfondire. Credo, Giovanna, mi scusi, ma anche di giorno, anche di giorno terranno accese le luci anche al mattino se e devono fare il consiglio fare dei ministri. Aprono le finestre, perché sono tante finestre. Perfetto. Aprono, giusto, non avevo pensato a questo. Aprono le finestre, anzi proponga proprio alla luce del sole in un bel patio il Consiglio dei Ministri, così non c'è neanche bisogno, anche quando anche ci fosse una giornata uggiosa e grigia, in un bel patio lì a Palazzo Chigi potrebbero fare un bel... Ti piace questa idea, Leonardo? Si potrebbe lanciare? No, no, campionessa di polemica sterile. Vabbè. Sì, sì, io pensavo che fosse già il primo. Con affetto, tra l'altro. Con affetto, perché ci segue tutti i giorni, grande patrimonio di uno, nessuno, 100.000 di nostri ascoltatori, la signora Giovanna da Perugia, grande, un grande abbraccio. A Perugia. Flavia da Brescia, buongiorno. Buongiorno, io facevo un intervento che riguarda la scuola. Sì. Volevo invitare, intanto richiamare l'attenzione dei genitori che non sempre sono informati e abbastanza competenti, però possono facilmente capire. E poi chiedo un gesto d'amore per i nostri bambini dai 6 ai 10 anni. Ora non c'è più il maestro unico, ma io sì. All'università sui testi di scuola di grandi esperti ho sempre letto che a questa età è importantissimo il maestro unico per questi bambini. Voi mi direte, ma allora lasciamo a casa un sacco di gente, ma neanche affatto. Lei dice li riqualificherebbe. Ma perché è così importante? Adesso ci sono due o tre maestri elementari. È importante perché il bambino a quell'età lì ha bisogno di avere un modello davanti, non cinque, non ci capisce più niente. E se il modello fosse sbagliato? Allora, il modello potrebbe essere sbagliato, ma se noi siamo materialisti e pensiamo che un bambino sia semplicemente un vaso da riempire, potrebbe avere ragione lei. Ma il rapporto educativo è un'altra cosa. Comunque, questo non vuol dire che non ci debbano essere altre figure. Sì. Però, cioè, lei dice però, insiste, bisognerebbe tornare all'importanza della figura unica. Sì, sì, ma è identica. Ma lei, signora, che ricordi ha? Signora, che ricordi ha? Lei del suo, un ricordo. Posso spiegare, sì. Faccio un esempio? Sì. Faccio un esempio facile? Attualmente, prego. No? C'è l'insegnante di italiano, chiamiamolo matematica, sì, eccetera. Matematica. Ecco, allora, la mattina magari il bambino fa, mi chiamo italiano, poi c'è il mezzogiorno, mangia, salta, eccetera, eccetera, poi tutto affannato, stanco, eccetera, alla lezione di matematica. Se ci fosse stato il maestro unico, come sempre, avrebbe visto la stanchezza di questo bambino. Allora, e non l'avrebbe caricato non solo, lì. Ma perché questo lo può fare anche l'insegnante di matematica, ma è quella rigidità lì che non è adatta. Sì, sì, insomma, abbiamo capito, no? Perché siamo in conclusione, Flavia. Flavia ci sta spiegando che il maestro unico o la maestra unica ha un'idea generale di tutte quelle che sono i carichi di lavoro, capisce quando i bambini sono stanchi, può gestirli al meglio avendo da solo o da sola tutta un'idea generale. Va bene, insomma, è una proposta di Flavia con cui ci fermiamo. Sei un po' perplesso. Però, se sei perplesso, devi dirlo. Tieni conto che è una nostra cara ascoltatrice come Giovanna da Perugia, quindi tanto devi dire grazie. Grazie, Giovanna da Perugia. Però se ti capita una maestra terribile, ti trovi una maestra terribile col quale non ti trovi bene, diventa ancora più complicato. Quindi manderei ancora per la proposta del signore la frase dei 3-3. No, non mandiamo nessuno. Ma parla stronza! Io la manderei più sul Consiglio dei Ministri solo al mattino o nel patio, come ho detto io. Concluderei però, signora, con questo un bel messaggio di Beppe d'Arezzo che fa una domanda semplice, che è questa: mamma nera può andare a prenderlo in quel posto? Col punto di non chiedermi perché, così Beppe d'Arezzo. Mi organizzo e ci vado subito oggi. Noi ci ritroviamo domani. Uno, nessuno, 100.000.